Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Considerando quanto abbiamo pagato, paghiamo e pagheremo per il bene della nostra compagnia di bandiera, troverai giusto venisse data a ciascun cittadino una piccola quota di azioni all'Italia, non in regalo, ma a giusto compenso dei sacrifici richiesti. C'è qualcuno che forse non ha pagato almeno un pezzettino di ali? Ma come fa Israele a trattare con qualcuno che ha come obiettivo dichiarato la sua distruzione? Visto che si parla tanto di uso della forza sproporzionato da parte di Israele, vorrei capire a cosa equivarrebbe un uso di forza proporzionato. Israele deve forse lanciare Qassam e mandare kamikaze a farsi saltare a Gaza? 900 morti sono purtroppo tantissimi, in valore assoluto. Però, proprio perché Gaza è una delle zone più densamente popolate del mondo e proprio perché Israele ha una potenza di fuoco enorme, mi sembra indice di quanto Israele cerchi di condurre la guerra cercando di limitare le morti dei civili. Forse sbaglio, ma questa è la mia sensazione. Yuri. Gentile direttore, durante varie trasmissioni ho sentito più volte ripetere da conduttori e da ascoltatori intervenuti che Israele dovrebbe tornare nei confini pre-guerra dei sei giorni. Credo che i conduttori, soprattutto, dovrebbero informarsi bene in modo da riportare il discorso in termini di informazione corretta. La guerra del 67 fu combattuta e stravinta dagli israeliani, che erano circondati da 100 milioni di arabi che volevano eliminarli. Niente di nuovo sotto il sole, un'altra soluzione finale. I territori conquistati erano una garanzia di confini sicuri. Furono in parte restituiti, la penisola del Sinai agli egiziani dopo il riconoscimento dell'esistenza di Israele. Se ricordo bene, anche qualcosa alla Giordania, previo accordo. Quindi, caro direttore, se Israele deve restituire i territori occupati in seguito a guerra vinta, l'Italia deve restituire la provincia di Bolzano e Slovenia e Croazia ci devono restituire l'Istria. Giusto per fare due esempi che ci riguardano. A giorni sarà il giorno della memoria e ci saranno trasmissioni, incontri, commemorazioni. Gli ebrei vanno bene solo da commemorare, da morti. Israele è l'ebreo tra gli stati. Da lui si esige di più. Un vecchio amico italo-israeliano mi raccomandava: se senti crescere l'antisemitismo, preoccupati, perché sei in pericolo anche tu. Io ho paura. Mariangela. A chi reputa che i quasi 10.000 tra missili Qassam, Grad e colpi di mortaio lanciati da Hamas dall'anno 2000 sulle città israeliane siano dei fuochi d'artificio, vorrei ricordare che tali missili hanno una gittata che varia tra i 5 e i 40 chilometri e che tali innocui botti hanno fatto decine di morti, ingenti danni materiali e ancor più grandi danni psicologici su una popolazione che vive da anni sempre pronta a rifugiarsi nelle migliaia di bunker antimissile sparpagliati sul suo territorio ad ogni suono delle sirene d'allarme. Anche perché questi fuochi d'artificio sono privi di qualsiasi sistema di guida e vengono quindi lanciati a casaccio in direzione delle città israeliane, andando a colpire quindi indiscriminatamente qualsiasi obiettivo, civile o militare che sia. Ma è evidente che per qualcuno ci sono popoli che si meritano di essere bombardati tra l'indifferenza e la connivenza generale, mentre per altri lo stesso trattamento si definisce crimine di guerra. Alessandro. Sono ateo e non sono iscritto alla Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, ma l'iniziativa delle scritte sull'inesistenza di Dio sugli autobus genovesi mi pare simpatica. Quello che non ho mai capito, soprattutto perché è detto da chi è fedele, è perché chi non crede a qualcosa di intangibile e indimostrabile debba portare prove a favore del suo non credere. È il ribaltamento di quello che facciamo in ogni altro ambito della vita. Se credo in qualcosa, sono io a doverne dimostrare l'esistenza. O sono un folle? Saluti, Simone. Domenica 11 gennaio, durante la trasmissione di Rai 3 che ricordava il cantautore genovese a 10 anni dalla sua scomparsa, il conduttore Fabio Fazio, mentre ne ricordava alcuni aspetti della personalità insieme alla moglie Dori Ghezzi e al regista Ermanno Olmi, in un passaggio del suo interloquire lo ha definito ateo. Ma lo fu veramente? La brutta notizia è che Dio non c'è, la bella notizia è che non ne hai bisogno. Gli autobus di Genova, la sua città, prossimamente esibiranno questa pubblicità progresso. Ovviamente non c'è nessun nesso diretto tra le due cose. Ciononostante, queste due dichiarazioni quasi contemporanee circolate sui media italiani mi hanno spinto a questa piccola riflessione. Era veramente ateo Fabrizio De André? Veramente tutti noi non abbiamo bisogno di Dio? In uno degli ultimi concerti che tenne a Udine, nella mia città, nel febbraio del 1999, disse, introducendo alcuni brani tratti da uno dei suoi capolavori, La Buona Novella, che l'Islam considera Gesù un profeta importante, mentre il cristianesimo ignora completamente la figura di Maometto. E questo ovviamente è una nota di demerito, a suo avviso, per la nostra religione. Questo disse alcuni anni prima del 2001. Chissà cosa avrebbe da dirci oggi. Amava definirsi politicamente anarchico, questo è vero, e sicuramente lo è stato anche quando ha trattato i temi esistenziali più profondi. Quello che ci rimane del suo lavoro di intellettuale, oltre che di grande poeta e musicista, e traspare in tutta la sua opera, è l'attenzione, l'amore per l'umanità sofferente, peccatrice, gli ultimi, le prostitute, Bocca di Rosa portata in trionfo insieme all'amore sacro, o Marinella uccisa e abbandonata da un bruto in un fosso, per Gesù che muore in croce, ucciso da quel potere che poi lo avrebbe fatto Dio e nel suo nome altri uomini uccise, o il bombarolo, il terrorista che dopo aver giudicato, condannato, ucciso, arbitro della vita degli altri, si accorge di essere stato usato strumentalmente dal potere borghese che voleva distruggere e ritrova la prospettiva redentiva solo nell'incontro con i carcerati. La sua umanità è il drogato che ha paura di confessare alla madre la paura di vivere, gli impiccati che muoiono a stento appesi ad un cappio, i soldati caduti in guerra, mentre perdono l'attimo fuggente di un dito non premuto sul grilletto per colpa della coscienza, che ti dice di non uccidere. La vedova, che accanto nel letto, le rimane solo una medaglia alla memoria del suo eroe. L'innamorato suicida, che non resiste in carcere lontano dalla sua donna. Questi e tanti altri personaggi sono il soggetto costante dell'opera di De André. L'umanità perdente in cerca di giustizia, dignità, rispetto, compassione, comprensione, redenzione, amore. De André arriva tramite un suo percorso laico e personale allo stesso risultato insegnato dal cristianesimo. L'amore per il prossimo, il rispetto per la dignità di ogni persona, il perdono per la condizione umana che dipende dal mistero che sta sopra l'esistenza di ognuno. È un caso che il primo figlio porti il nome cristiano? È evidente che De André fosse molto attratto e affascinato dalla figura e umanità di Gesù. E mentre nei primi anni 70 l'Italia stava scivolando nel baratro del terrorismo e nella strategia della tensione, lui pubblicava un album, La Buona Novella, che suonava quasi incomprensibile agli intellettuali di allora, idioti di oggi. De André ateo? Non direi. Credente? Non direi. Forse era credente o non credente a modo suo. Se c'è una logica, un logos che regge l'universo, un dio personale che si nasconde dietro la potenza ordinatrice della natura, è a prescindere da quello che noi uomini pensiamo o crediamo. Forse la bella notizia che andrebbe scritta sugli autobus di Genova è proprio questa, che quello che conta non è tanto da credere o non credere, ma amare. E il vostro illustre concittadino ne è stato testimone con la sua opera poetica e musicale. Grazie a Fabrizio per la sua arte libera, bagaglio e patrimonio di ognuno di noi. Marta. L'iniziativa del Bus Ateo non è stata ideata dall'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, ma viene da un'idea di un giornalista inglese dell'Independent, di origine indiana. Ci sono 800 bus del genere in giro in Gran Bretagna in questo momento. Si è poi diffusa in tutto il mondo, infatti circolano già dei bus atei anche a Barcellona. L'idea nasce in risposta alle classiche pubblicità religiose che si trovano in giro nei mezzi pubblici di tutto il mondo. Non si vede perché le religioni possano fare pubblicità e chi non è religioso non possa esibire orgoglioso il suo ateismo. Mi risulta che tutte le religioni facciano continuo sfoggio di orgoglio religioso. Il Papa fa i raduni oceanici della gioventù, gli islamici sciiti fanno la processione della Shura e via andando. Quindi non ha nulla a che fare con l'anticattolicesimo, ma nemmeno alla lontana. Io sono ateo e me ne vanto. Non lo nascondo e non vedo perché dovrei. Infatti ho già versato 25 euro all'iniziativa e penso di versarne altri 25 il mese prossimo. Mauro. Voglio ringraziarvi per l'attenzione posta da una recente puntata di Viva Voce alla questione dei nidi e materne in Italia. Io e il mio compagno lavoriamo entrambi, e chi si può permettere di non farlo? 21 mesi fa è nato Mattia e per noi è iniziato un calvario. La persona che avrebbe dovuto occuparsi di lui mentre la sottoscritta rientrava al lavoro ha avuto problemi di salute e non ha potuto più mantenere la promessa fattaci. Così abbiamo mendicato all'asilo nido comunale. Scoperta, l'asilo nido del nostro comune raccoglie richieste di 20-25 comuni limitrofi. La precedenza è per le famiglie con più figli, la precedenza è per le famiglie monoreddito, la precedenza è sempre per gli altri. Ci hanno vivamente consigliato di rivolgerci ad un nido privato e così abbiamo fatto. Abbiamo cercato nella nostra zona, ma ci sono delle liste di preiscrizione nelle quali la precedenza è per i residenti. Dopo qualche mese di attesa, e ormai pensavo di abbandonare il lavoro per occuparmi del mio bimbo, forse aiutati da qualche santo in paradiso, ci hanno chiamati da un nido privato di un comune limitrofo. La retta è di 470 euro al mese fino alle 13.30, mentre quella dei non residenti è di 670 euro al mese fino alle 16. Il comune dove ha sede questo nido partecipa alla spesa sostenuta dalle famiglie rimborsandone una parte, ma solo ai residenti del comune. Quindi a noi nulla. Abbiamo optato per la retta delle 16 per qualche mese e poi, sempre grazie al paradiso, abbiamo potuto scegliere la retta fino alle 13.30, dato che la persona che avrebbe inizialmente potuto tenere il bambino si è rimessa in salute e ce lo tiene per la seconda parte della giornata. Il bimbo forse a settembre viene preso in una materna del nostro comune, ma anche qui abbiamo dovuto preiscriverlo e dobbiamo aspettare fino alla fine di febbraio per sapere di che morte dobbiamo morire. Se la risposta dovesse essere negativa, dobbiamo lasciarlo ancora al nido privato con le spese già indicate. La retta della materna, per noi che lavoriamo tutte e due, è intorno ai 140 euro fino alle 16. Per noi significa risparmiare 330 euro al mese. In proporzione, la retta del nido privato è più alta della rata del mutuo sulla casa. Perdonate lo sfogo. Erika Merate, Lecco. Direttore Fabi, qualche tempo fa un vostro ascoltatore si era lasciato andare a uno sfogo contro gli economisti che avevano preannunciato che la Cina e l'India, con l'aumento enorme delle loro richieste di petrolio, avrebbero portato il prezzo dello stesso a 200 dollari. E ora, a breve distanza di tempo, gli stessi economisti indicano che il petrolio potrebbe scendere a 25 dollari a causa di una recessione economica globale, nata da una crisi finanziaria che loro, assieme ai guru della finanza e ai politici, non avevano capito per tempo. Lo stesso ascoltatore concludeva che gli economisti dicono molte sciocchezze, ma non dicono la sola apparente verità, e cioè che la finanza è in mano alla speculazione, che fa quello che vuole, a prescindere dalle teorie. Direttore Fabi, a quando una guardia di finanza internazionale, così come avviene per il terrorismo e la mafia, in grado di scoprire per tempo gli autori della grande speculazione e in grado di definire delle regole che impediscano sconvolgimenti simili a quelli ai quali assistiamo oggi? Domenico, Roma. Caro Domenico, lei chiede una guardia di finanza internazionale che riesca a prevenire truffe e speculazioni, che riesca a riportare ordine ai mercati e sicurezza ai risparmiatori. Un desiderio probabilmente ambizioso, ma almeno qualcosa in questa prospettiva andrebbe fatto. Certo, si parla di grandi accordi internazionali, di una nuova Bretton Woods, riecheggiando il grande accordo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale diede un po' di ordine al sistema monetario internazionale. Qualcuno dice che a questo punto basterebbe un accordo a due tra Stati Uniti e Cina. Potrebbe essere un buon passo, anche in vista del G8 che ospiterà quest'anno l'Italia. Ma contro la speculazione, caro Domenico, bisogna anche muoversi ritrovando l'etica dei comportamenti, ridando un senso morale all'attività, ricordando l'importanza di una società che abbia una corretta scala di valori. Da questa crisi finanziaria potremo uscire almeno con qualche importante elemento positivo. Si dovrà abbandonare l'illusione di poter moltiplicare i soldi, di costruire la ricchezza separata dal lavoro, di far prevalere la finanza sull'economia reale. Le speculazioni che hanno fatto impennare il prezzo del petrolio e ancor più del grano e degli altri prodotti alimentari non devono trovare più posto nella società moderna. Ho sentito qualcuno fare dell'ironia sulla tassa agli immigrati. Vorrei, da immigrato, precisare una cosa. Come lavoratore pago già le tasse, come tutti. Per il rinnovo del permesso di soggiorno di mia moglie pago complessivamente 130 euro. Aggiungendo i 50 della tassa arriverò a 180 euro. Anche noi stranieri poi mettiamo il bollo sul nostro passaporto e costa 60 euro. A cui però devo aggiungere i 130 euro di treno per andare all'ambasciata di Roma e farmelo mettere. Stesso discorso per mettere i figli sul passaporto. Saluti, Oliver. Io voto centrodestra, ma mi piacerebbe conoscere le menti geniali che hanno stabilito le regole delle fasce di reddito necessarie per usufruire del bonus familiare. Secondo questi parametri, una coppia che arriva a 17.000 euro all'anno avrà diritto a 300 euro di bonus e una famiglia con un bambino che arriva a 17.200 euro, niente. Già, perché il tetto resta sempre 17.000 euro anche per tre persone, aumentando nel caso a 450 euro il bonus. Un single, che arriva a 15.000 euro, avrà 200 euro. Ma è più in difficoltà chi guadagna 15.000 euro da solo o 17.200 in tre? Forse mi sfugge qualcosa. Capisco solo che di familiare questi aiuti non hanno nulla. Anzi, mi pare vengano privilegiati i singoli e le semplici coppie. Dov'è la gradualità del reddito? Ma sbaglio anche nel pensare che si dovrebbe essere dei geni nello stabilire regole più eque. Basterebbe solo un po' di buonsenso. Un caro saluto, Giulia, Milano. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.